casa, ora non sei più là. Metti su la tua armatura. Tu non lo sai, ora che cosa fai? Se proteggerti non vuoi. Non parlare più, sai che non mi vai giù. Io non so chi sei, so che segui me, ma non so che vuoi, non so che fai, non ti vorrei. Guarda intorno a me, l'aria è limpida e non manca mai, mai, yeah. Gli alberi danno frutti ed ombra a me. Stai attento, il sentimento può farti male tanto. Stai in guardia, sai, perché ne avrai delusioni e cedimenti.